Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Uno, due, tre, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hola. Uno, due, tre, prova, cambio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Tutto funge, Gianni. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A me, Gianni. Uè, uè. Aspettando. Aspettandomi, stavo regolando un apparecchio. Stavo dando appena appena di ecco, ma proprio poco. Come va? Fai un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guarda come va, cambio. Più 9,30, sì, va bene, va bene. Andrà bene. E io qua questo smith lo devo regolare. Cosa già? Ho detto questo smith lo devo regolare perché più di quel tanto non ti dà. Gianni, non mi copri. Marco. Sì, Daniele sta un po' andando a scarica, io già. È una bella timbrica, proprio il momento che te l'ho detto, una bella timbrica, che mai che? Questo, quello famoso, gli ho messo il cavo lungo 1,5 metri. Ah, la static, eia. Sì, non amplifica molto, che è scomodo quel mic. Ok, un attimino che sono su WhatsApp, dai, riprendete, non posso stare. Riprendete pure, vai Daniele. Brava, brava. Va bene, io beh sto uscendo già. A scariche, Dani. A scariche. Aspetta. È come se avessi la potenza al limite, Daniele, forse è troppo tirato o di radio o di watt. Ciao, ciao a tutti, un attimino che mi chiami. Marco, aspetta un attimino, dai, che lo voglio alzare il microfono, detto che non amplifica. No, in generale la static, quando io l'ho provato sul 3009, anche senza trimmer, no? Hai capito? Non è che spingesse più di tanto. Cioè il DM1000 spingeva di più, sì il DM1000 decisamente spingeva proprio come amplificazione, perciò io non sono rimasto contento anche di quel mic, a parte la timbrica un po' acuta. Guarda adesso se spinge di più che alzata. Sì, però conta che è unito a un baracchino che non è normale, è un baracchino super quello, capito? Mentre il 3009 anche col trimmer aperto è sempre un baracchino normale, lì invece è una tragubba. Daniele, risolto, hai toccato qualcosa adesso? Prova. Anche quello è vero, Marco, no, stavo facendo roba io. Anche quello lì è vero, dai. 2009, se vuoi con la static te lo provo, te lo faccio sentire. Questo qui è il nuovo che mi è arrivato. Via. Al limite non alzare troppo la potenza già. Vabbè, un po' lo preferivo prima, ma è un gusto personale, un gusto mio. Cosa ti volevo dire? Ma ieri, l'avete beccato il nostro portante, il Pernacchione. E se, tutte le sere, tutta la sera stanno, è una cosa allucinante. Sì, beccata. L'ha beccata a Franco. L'ha trovata sotto casa sua, è andato e l'ha beccata. Io ho sentito ieri la parola latte dolce, può essere? No, non lo so, no, so che l'ha beccata, però non so chi sia, non so niente, capito? Sì, perché è un continuo, ma la stagione è stata un'ora e mezzo, forse anche due, tutta la sera. Non mi viene un fruscio, non mi viene, vabbè. Avanti, Daniele. Sì, sicuramente Daniele deve trovare l'impostazione ottimale per quell'apparecchio, ottimale, perché c'è l'impostazione ottimale. Oh, era acceso qua già, sono un passant qua, dai, di passaggio, devo... Mi sto studiando un programma di videoconferenza ai condomini, che se non azzecchi bene le impostazioni o non senti l'altro, poi vedi un bel di persone, devi vedere il casino che fanno. Uno non esce di radio, cioè di radio, l'altro non sente nelle cuffie, è tutto un casino, insomma. Vuole fare anche quello, stavo guardando una cosa, un attimino. la questione. Certo, sì, se c'è tempo. Un attimino, allora. Tac, sì, ok. K, a parte questo apparecchio non capisco un cavolo come va sul 45. Beh, avrà le bande, il selettore di bande, oppure va come un certo baracchino, dopo il 40 continua a girare e va oltre, cambia la banda automaticamente. Come il portatile Intec, te lo ricordi? Un attimo, sono al telefono, Dani. Ah, ci siete, sì. Daniele, sempre troppo spinta, come strappata, adesso io non so se sia stapparecchio, ma dubito. Arrivo subito, arriviamo subito. Brava, brava. Che avanti. Buonasera, salutoni circolari, Daniele da questa parte. Eia, chi sei, Franco? Forte e chiaro qua, Franco lì. Va bene. Anche la radio è buona. Cava. Già va bene, già va bene. Tu bene mi ascolti? Ehi, Fra. Forte e chiaro, Fra. Sei Santiago 6, radio 5, dai. Cava, cava. Già va bene, già va bene. Ehi, più che bene, Fra. Va, più che bene, vai. Gamba, gamba, se sei pure in macchina. Ah, allora di lusso, Fra. Va bene, dai. Anda bene, mega. E l'importante è sentirsi, Fra. Poi, io non sto strappando, non è troppo alta questa. Gamba, gamba. Forse perché era un pelino più alta del normale. Anda bene, mega. Ho 3009, già funge, forte e chiaro. Eia. Fra, mi stavi chiamando? Dai, non ci possiamo lamentare, Fra. Se no è peggio. Eh sì, vabbè, per peggio meglio questo, Fra. Vabbè, dai, Fra, che adesso devo andare a fare la commissione, se coincide ci sentiamo dopo, dai. Ehi, a Franco, dai, contraccambiano tutti al 100, dai. Alle prossime, dai, buon proseguimento di serata, ciao ciao. Orecchio da ruggita, se ascolti doppio rumo cambio. Un attimino che mi sono al telefono e ti chiama Osiri, così almeno chiudo, dai. Attenzione, attenzione, un amico che ti lì da France, che ti tutto bene. Sto già, lo vedi oggi, rumorbo. Ehi, sto parlando Osiri, ciao. Oh, Fra. Ah, grande. Cosa stavi dicendo, Fra? Beh, le CUT, de France, le Mancosci, con il telefono, sì. Franco, Franchi. Ehi, ehi. Beh, clan. Qua siamo. Qua siamo. Cava, cava. Oh, c'era Gianni poco fa, poi c'era Marco e sono spariti tutti. E voi siete troppo... come si dice... pomeridiani, io adesso sto facendo cosa qua, sono entrato in questa stanza, ho visto che c'era gente, ma non è che mi mettiamo a durare già da adesso. Ehi, aria. E sto parlando un quarto d'ora fa, forse. 10 minuti e un quarto d'ora, non di più. Io sono italiano e parlando francese. No, perché poi mi sono spostato e non l'ho sentito. Sento a Franco, California. Io dovrei essere in campagna. Attento Franco. Se non è... non sta facendo qualcosa, non lo so. Non lo saccio, Oca, non lo saccio. Ma non è alta come modulazione, che stavo dicendo che sentiva come strappato, buh. Ma chi tu? Io non sono alto, no. No, assolutamente, vai benissimo. Va bene, sto facendo la prova con Gianni, cioè, sentiva un po' come strappato anche Marco, buh. Dipende dai baracchini che stanno usando, lo so io col Galaxy ti sento più che bene, non bene, più che bene, ottimo, benissimo. Cavala, aspetta un attimo che c'è una bassa. Ehi. California. Attento Franco, Franchi, e Ciccio Gracia. Sono arrivato adesso qua, dai, vado a fare una bella doccia, ci sentiamo dopo se ci sei. Io, già sono qua in ascolto io. Sì, le datture lasciano al centro, che serve per... A me è bene mi ascolti in radio, se sono centrato, mi ascolti bene, vuol dire deve rimanere al centro. Sì, sta tutto bene. Allora, metti il tana più 3 adesso, che vediamo se comunico io. Se il connettore è uguale. Oh, a te io provo. No, le connessioni sono sbagliate qua. Allora non è un Saturn, ecco quello, cioè del, non è tipo il Galaxy, dai, si chiama Saturn, boh. Si chiama Saturn, ma non è Saturn, ecco. Però io non ti compito perché purtroppo non è. Sì, cosa ci vira? Che cosa ci vira? Hola, così cosa è successo, nulla, no? No, la radio è bella, però il 5 è perfetta. Hola. Già va bene. Questo BFO cosa significa, blu? Adesso io non ce l'ho davanti, non te lo so dire. BFO, blu, sa che filtro ce ne so. Ok, però lo filtro mi segna giusto qua. Oh, perché basso ci sta arrivando io. Prova a vedere. Guarda, vedere, sempre come modulo, sempre, 18 watt modulati. Ah, ecco perché, questo smitter ha 3 scale. Allora, c'ha SWR, buccia, il segnale e il power. Allora, quel BFO sicuramente per centrare lo smitter. Perché ho trovato un'altra però. Usa voi, dai, c'è radio. Lasciala stare così, chi vi attacchi e da bestiolina che fai due, già metti schirreggia. Allora c'è questo pomeriggio, questo microfono, una rocchetta qua. Così non si è uscito, mettilo al massimo. Così è al massimo, già vedete che modulazione. È un microfono semi amplificato, va bene. Sì, bello. Se c'è bello, va bene. Abbiamo visto la foto, è molto bella quella radio. Adesso ti mando la foto. zappa qua, troppa zappa. Mamma mia, allora che ci avevi mai detto non si può fare? Non lo so. Zappa zappa. Oh, ma bravo. E beh, le luci accendono bello, com'è illuminato? Rosso, com'è? Arancione, com'è? No, allora c'ha un bel smitterino, bello grande, poi c'ha tutti i numeri verdi, là, fino al 22, 23, poi vabbè c'ha il trattino, e dove metti proprio il canale è segnato in rosso, e poi quando va in trasmissione c'ha il tix rosso, là. Cappa, cappa, va bene. Una bella radiolina, già va bene, bella. No, ma l'ho vista la foto, è bella. Sì, la vedi già pure. Ma come ricezione, come? Mi senti bene a me? La colonnina esterna funziona bene, sto a posto. Dove la ricezione non ce l'ho? Bella. Bellissima, guarda. Deve essere un... Allora, questo è un Saturn M-5028. È verde militare, qua e poi c'ha tutto il coso cromato, bella eh? Ehi, ehi, Saturn, sì, mandami la foto, la giro a Capri a vedere se la conosce. La gente mi sembra che sia stato un break in lontananza, chi è? Tu, mi pare che avessi sentito qualcuno, break in lontananza. Adesso la giro a Claudio a vedere se la conosce. Peccato, non c'ha la scatola, c'ha la scatola, qua, c'ha... il suo polistirolo, ma c'è il capo morbido, bella, dico che è veramente bella. Sì, davvero bella, lo Smith era importante, almeno ci vede. Bella gara, bella me. Questa è quarzata, eh? Eh beh, vedi tu, per forza invece è quarzata, normale sia quarzata. Bella gara, va bene, va bene. Adesso, allora, visto cosa vuol dire, aspetta su, volume, AML, Squelch, poi c'ha questo tone, tone 8, poi c'ha PFO, che è il pulsante rosso, l'automologia, e poi va pure di su ex Spark, poi non so cosa sia per questo. Vabbè, per il tono tienilo al centro, così la modulazione è più bella. Ah, poi sia c'ha il delta tune e anche il tono, capito? E anche il tono, il carrello è roba americana. Un bel certo è americano, Saturn è roba americana. Mentre sto parlando io il tono, guarda in che posizione deve andare. Se deve andare a destra o se deve andare a sinistra, perché ti fa la modulazione con tonalità bassa e con tonalità alta. Poi dipende da te dove la vuoi tenere. Guarda a vedere. Allora, io l'ho girato un pochettino a destra, che è più bella. Dipende da te, no? Dipende da te. Anch'io ho il tono, ad esempio, il Galaxy ce l'ho tutto a una parte. Ce l'ho tutto a destra, è più bella. Dall'altra parte invece chiude e fa la tonalità con troppi bassi. Mi sono vedere che va con la ricezione spaventosa. Bella, proprio... Bella. Ma i vintage sono così, Massimiliano. Quando io attacco l'Elbex, per dire, c'è una ricezione come il Galaxy, eppure è un baracchino, non è un base, però la ricezione che ha è favolosa. È grande quanto ne se non, come larghezza, come grossezza, però leggermente più corto delle se non, capito? Peccato che non va bene il corto, già. Il più qua. Sicuramente alle connessioni dell'Elbex. Cosa entra, esce di portante oppure non c'è ricezione? No, questo anche se tu stacchi, diciamo, il microfono, la ricezione c'è sempre. Invece il Galaxy non c'è, quindi alla connessione Midland è quello, alla 48. Perché? Avanti! Buonasera, Echime! Ciao Mario, buonasera anche a te. Sì, sto provando un vintage, ti mando una foto adesso. Cava, cava. Sto rimanendo del microfono, sì, Daniele. Bocca, guarda adesso che c'ho lontano. Non te lo devi attaccare alla bocca, sei tutto impattato. Tienilo lontano la bocca, poi quando vai sul 45 ti attacchi l'eco, allora fai quello che vuoi. Però quando parli così normale, senza eco, senza non tenere attaccata la bocca. se fosse un microfono da tavolo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Così è più chiaro. Non sei Nico. Nico è lo giocatore di turno di ogni sera. Si sta andando come facciano i gorri. Inutile che abbassi la potenza, inutile che metti un'antenna diversa, intanto sempre inducemi. Girami i bimbi, vai. Riprendi, io non le materrette, intanto arriva. Arriva più più, riprendi Daniel. Eia, eia. Ma si vediamo, andate a fare la foto. Sono mandata, guardala. Ehi, aspetta che scendo giù e me la controllo. Riprendi. Positivo, dai, dai, dai. Allora, sì, se non c'è un problema, non ci viene. Lascia la bruciare, così la mia fatta a sé, intanto lo... lo superate alla grande. Sì, sicuramente se tu attacchi a quella radio lì, Massimiliano, se tu attacchi il microfono, cosa ti posso dire? Tipo alla 48 funziona lo stesso. Vale a dire che l'MB più 5, per dire che c'ho io, funziona su quella radio. Guarda qua che gli ho lanciato il coso a vedere com'è così. Ehi, grazie. Oh, mia. Quello nero, va? Sì, quello nero, ma ci vediamo. Stai arrivando a quanti arrivi col capo? Fate un gotto. Vabbè, non è che interessa così, va, giusto per... KK. Daniele, meglio arrivo così. La radio ha cambiato comunque, qua così. È più forte la radio. Già lo sai che con l'amplificatore lì, quando agganci aumenta anche la radio, capito? Ehi, ehi, gava gava. E vai in aramma a te, a dosure, da tutta la Virginia. Non è vero, aspetta, ma ci vediamo tutti i giri così. E tutte le sere che pensa a disturbare, ma non disturba nessuno. E beh, Daniele, cosa hai agganciato? No, sono qua, sono sceso giù per prendere il telefono e a caricare. Sto guardando la foto che mi ha mandato Massimiliano nella radio. Cavolo, è bella, eh? No, non vedere. A me ti piace, l'hai vista la foto? Cava, cava. Bella, bella. Quanti canali ha? Se non riesco a capire. 23. Sì, 23 canali c'è allora, è un vintage 23 canali, però hai visto la bellina che adesso gli ha agganciato quel linealetto che c'è lui, da 9.10 è andato a quasi 9 più 30. Già vabbè, questo imbecille si sta giocando con la portante. Ma non ti fa niente, non ti preoccupare, è tutto a posto. È Santiago, lascialo bruciare, tu sei 9.30, arrivati tu, se ti può fare qualcosa. Massimo! No, Massimiliano forse sta cambiando il radio. Gaba gaba gaba gaba. Va bene, va bene. Ok. Che mi devo prendere la regolazione a come tenere questo cavolo di microfono abituato all'altra radio. E che regolazione devi fare? Che mi devo ricordare che lo devo tenere distante, se no qua divento impassato poi. Capito, capito. Però Daniele devi cercare, se i microfoni sono uguali, di usare quello dell'87, non va bene su quella radio. Questo è qua che sto usando, è questo che usavo sempre con l'87 e che l'ho collegato a questo qua. Sì, lascialo stare, inverti, perché l'altro io noto la timbrica diversa, questo l'87 mi piace di più, ma non ce l'hai quello del 48, non ce l'hai più. L'originale 48 sì che ce l'ho. Ma perché non lo provo, se va bene? È vero, aspettami 30 secondi che lo sto provando. Ehi, attacca quello, voglio vedere se c'è differenza, giusto per darti un'idea, mi Daniele. Per dirti, ecco, quel microfono lì va bene, usa quello, capito? Vai, Daniele. aspetta, che quello c'ha un problema, che siano staccato un filo. Allora devo sempre saldare, è vero. Non lo posso provare adesso. Se non puoi provare, allora. Allora, se non puoi provare, no, non fa niente. Però se tu ti metti a posto quel microfono del 48, sono sicuro che va molto meglio di quell'altro. Cava, cava. Perché questo forse fa la voce più... con più alti, no? Eia, fa la voce con più... con tonalità più alta. Sì, certo che sì, fa la voce con tonalità più alta, più acuta, mentre quella là c'ha tonalità medio bassa, quello lì c'ha un po' più di acuti ed è più bella la modulazione. Cava, adesso vero, se cosa ma la sorte era a questo microfono oppure a questo di contatto? Boh, aspetta un secondo, provo a vedere, non lo so. Io quello che mi ha virato a me l'Aran 48, per esempio, c'aveva una bella modulazione al microfono normale, poi non lo so. Provo a vedere, Daniele, perché andava un bel bene quello lì. Ehi, amico, aspetta, lo sto aprendo adesso, vedi cosa... cosa me l'hanno di aver preso? Eppure tutto collegato qua. Aspetta un secondo, lo ricontrollo. Guarda che non sia il... se non sia qualche filo tocca non tocca del connettore. Se non se ne è andata nella mare la capsula, ma mi sembra strano. No, classe, cos'è? Una cosa importante, torna indietro lo smitter. Aspetta a vedere. Sì, allora se torna indietro lo smitter c'è qualche problema. Ma non ci vediamo, non c'è più. Ma sì. Attento, Massimiliano. Guarda qua. È qualcosa di contatto. Questo, ma questo qual è? Quello del 48? Originale Midland. Ah, non è male, solo che anche questo è come quello là, sento tonalità medio bassa, non sento acuti, un po' impastata, che strano quello. Vedi, questo è gemello Midland. Questo com'è qua? Va bene, però mi piace sempre quello, non so se è quello dell'87 con il 3009, mi piace più quello lì, la verità, Vani. Ehi, Massimiliano, avanti, aumenta il balò. Guarda, questo è il solito che usavo con l'87, là. Quello di battaglia, diciamo. No, vabbè, questo va benissimo, Vani, alla grande. Guarda, Massimiliano, la differenza che c'è da un microfono all'altro, io una la sento un po' impastata, con tonalità medio-bassa, mentre il microfono dell'87 è superiore. No, non è il problema del microfono dell'87, il problema è che lui, magari con quel microfono là che spinge molto di più di quell'altro, deve abbassare un filino il mic gain. Giramento di balle, ma non ti sbagli a fare questo con una persona del genere, ma tu sei proprio malato di testa, capo. Tutti i certi giorni così, ma lasciamo perdere, tanto non ti fa niente neanche a te, no? Come vedi io lo ignoro, sei un marco di Gardena, non vuoi fare nulla, nato malato, cosa vuoi fare? Hai sentito Massimiliano ti ha detto? Magari metti l'altro microfono, Daniele, e abbassi leggermente, non lo so, fare qualche regolazione. Cava gala, Gianni Doppio, ci sei? Ascolta, dammi un controllo per favore, già. Vabbè, sono agganciato adesso, e poi te lo sgancio per giusto per vedere com'è la radio. Io ti sento un bel saturo, Massimiliano, non so se dipende dal mio apparecchio o che cosa. Saturo addirittura? No, già, guarda, se c'è qualcosa... Allora stanno male questo apparecchio, perché ti sento tutto saturo, come se fossi fuori frequenza. Guarda dove c'è, il fine corso hai toccato. Gianni, fine corso hai toccato. No, aspetta che controllo. Ti controlla, che sta arrivando bene qua, Massimiliano, la ganonata. Oh, Daniele, tu bene mi ascolti? Io sì, già, ma Massimiliano. Adesso ho attaccato il microfono, quello di ieri, quello nuovo. Ok, allora mettilo alle 11, non a mezzogiorno, un pochino più basso qua. E adesso addirittura c'ero alle 10. Ma tu ci vado a fare queste voci? Dai, ci sentiamo, là, ciao. Ah, cosa allucinante. Ah, Massimiliano, ci abbiamo altri canali, Spostati dal canale intermedio, dai, nel canale Alfa, Daniele. 27095, vai, dai. E anche lui, non hai compreso la farina, la fisica di Donia Rocco. Che è un bastardone. A me non mi fa niente, Massimiliano, a me manco ballante in camera, me la futti. Io mi sento benissimo alla grande, non c'è problema. Vediamo un po' Gianni, prova con Gianni, intanto lo senti. Prova con Gianni a vedere questa saturazione che sente lui. Beh. Così ho sganciato, così sono in radio. Oh, non lo so cosa sia. No, adesso mi ascolti bene, ho sganciato. Già, qualcosa è toccato, cazzo. Se Massimiliano sta arrivando bene, cioè quella radio è perfetta, che cosa è Ducato? Magari regolando, facendo, se ne so cosa è Ducato. Guarda che non c'abbi il più 5, che non c'abbi il meno 5. Quella radio ce l'ha, mi controlla il fine corso se è centrato, cosa vuoi ti dica? Non ho toccato niente, a voi vi sento bene, a lui lo sento così. Non lo so perché, ma a voi vi sento perfettamente. E lui lo senti male, eppure sta arrivando bene Massimiliano. Non è che da me deve arrivare bene, a te deve arrivare male. Se a me mi senti bene vuol dire la radio è a posto, no? Prova Massimiliano. Non so se passo per questo imbecille, così di che sta già potete stare con un capo a te. Ci bianco la tua vita sul mondo. La tua madre non fa quello. Ma quando mai non riusciamo a beccare questo coglione che ogni sera si mette a rompere le palle? Io non riesco a capire se si può continuare in queste condizioni. Ah, ma il bambino guarda che è macchina della dubbio ragazzosa. A vedere che ti futto. A vedere che come ti sei vendere Bernacchia te la mostri in capo la Bernacchia. Tu vedrai che Claudio Spaviola a te ti mette segno brutto. Lasciami Bonino Baracchino in macchina, manco te ne accorgi tu, guarda, come stai facendo le pernacchie, io ti pizzico subito a te, miserabile che non sei altro. Fai schifo, fai, vedi che fai schifo, sei uno che vale meno di zero, dietro il microfono ti nascondi, puzzi, no, giovette vecchie, ne che... E se è vero quello che dice Gesù Cristo, tu vedrai che Claudio Spaviero ti bisseggeggia a te, perché intanto lo gioco qui c'è il 2. È inutile che dica ne contraddicano, intanto lo so che sei tu, guarda. Tu puoi cambiare antenna, puoi fare quello che ti piace, stai pur certo che io continuo a esserne sempre più convinto. Ehi, non ti preoccupare che tu manco te ne accorgi, io ti suono il campanello, anzi do un calcio a quel cazzo di cancello che c'hai. Vizzo di merda, ma dimmi tu se si può continuare così, cazzo, beh, roba da matti. A me già, mi senti bene? Ma se lo fa abitare giù la lì. Dai, soltanto la ciao. Guarda adesso, com'è che l'ho messo un pochino più su delle ore 9. Per me va bene, Daniele, per me va bene, non sono problemi, qua arrivi 9 più 30, l'importante è Santiago 8, 9, Gianni lo stesso, ma anche Massimiliano, se cambio radio Massimiliano, o agganci, se no è un casino. Daniele, ascolta, quando stai facendo questo così? Non ho capito, ho già detto Massimiliano. Sono di stare cansato, ho pagato un macco di caffè. Ascolta, ho detto, i watt mettili a mezzogiorno, quando stai facendo questo così. Quando agganci poi li porti a zero. Aumentali a vedere se cambia la radio. Guarda, adesso è mezzogiorno, tondi tondi. Te lo porti appresso a questo, allora, ciao, ci sentiamo più tardi, ciao. Ma non la smetti di fischiare, di sopra gli altri, coglione. Ehi, si ti acciappa, niente che per lui, che fuori un culo. Oh, ma lì alla teloce o ti arriva forte lì? Sì, qui a fondo scala. Allora già c'è prieto, non ti preoccupare. Ah, vedi che te lo poco in bocca, c'è un microfono a te. Ehi, continua, tu non ti preoccupare. Mi basta la conferma, lui. Ti arriva a fondo scala la teroce, non ti preoccupare. Carità, bubù, che succede? Io non ho parole per la verità. Non ti preoccupare, non avevo dubbi, continuano a dire di no e io continuo a dire di sì. Non ti preoccupare, se ti arriva a te a fondo scala la teroce, stai pur certo che è come dico io e non ci sono dubbi. Bianco, un secondo? Vi passano a tutti, ciao Daniele. E io non dico, c'è anche in Kiwi, non ti preoccupare. Ciao Daniele, arrivo subito, è Bianco. Non si preoccupi lui, continua a fare lo stupido, già le suonano la porta a qualcuno, non si preoccupi. È allucinante, ma che cosa poi? Cosa sei tutta la lì, fruscende, rottende, vende bernacchi, ma fa cosa? Ma chi ti sta cercando? Ma cosa vuoi? Non capisco proprio, non connetto. Cos'è già ritirato, dici? Avevi entrato Luca, dici ritirato, cos'è? Già soltato, sì. Tu continua a fare lo stupido che manco di una bici, tu. Ui. Lui, ho tolto il baracchino con la base magnetica, adesso mi sono rotto le palle. Adesso me la voglio togliere io la soddisfazione. Ma Siria, riprendi che ti sto registrando. Cosa vuoi dire, cosa vuoi fare? Non c'è nessuno, aspettano gli altri a rompere i coglioni. Ma uno si vuole rilassare, non lo può fare perché c'è sempre l'imbecille. L'imbecille c'è dappertutto, sia su internet, dappertutto. Ma io ho già preparato il baracchino con la base magnetica, adesso quando c'è che lui si mette a disturbare io vado a colpo sicuro. Se lui è distrutto. È distrutto se lui, guarda, te lo posso garantire, perché è vergognoso continuare in questa situazione. Ma così gardena che. Ma Siviliano si è spostato, se n'è andato già, perché non si può continuare a fare così. Ogni santa sera c'è questo imbecille che rompe le scatole, non si può. Io lo stavo registrando per farli ascoltare come lo sentivo io. Non dico come esce, come lo sentivo io, perché io a lui mi sento perfettamente, a lui no. Lo sento come se fosse fuori frequenza. Non so cosa dirti, io non ho fatto in tempo a registrarlo, se no te l'avrei mandata, qua sta arrivando magnificamente bene. Sia sganciato che agganciato, anche da Daniele. Daniele, tu lo sentivi bene? E anche Daniele ha chiuso. Ho fatto un bianco Daniele, qua. Ehi, va bene. Attento Massimiliano. Comunque qua lo copriva Massimiliano. Copriva Massimiliano? Sì, ma infatti, io continuo a non avere dubbi, poi io parlo per me, non coinvolgo più nessuno, io parlo per me. Io non ho dubbi, e mi rimango con il mio dubbio, ok? Poi tu vedrai che quando io lo scopro, allora rimanete tutti a bocca aperta, perché io sono convintissimo di quello che dico, punto. Non può arrivare a fondo scala alla teroce, non può arrivare a fondo scala alla teroce, ma nel modo più assoluto, capito? Perché alla teroce non c'è nessuno, è sempre nella zona che abbiamo detto, punto. Arriva anche qua. Ciao Claudio. Ciao ragazzi. Arriva anche a te senza ombra di dubbio, perché è in una zona abbastanza alta e quindi prende la teroce in vallata e porta il torrese davanti. Non ci sono dubbi. Senza cercare nessuno e senza insinuare niente per nessuno, già mi arrangio io. Poi quando vi dico esattamente che come dico io, allora vedrete che rimanete a bocca aperta a tutti. Ecchime! Avanti Daniele. Mi stavi chiamando Claudio, ho sentito. Sì, ti ho cercato. Vabbè, ho detto a Massimiliano, tu lo sentivi bene come me, perché Gianni ha problemi ad ascoltarlo. Tu lo sentivi bene? Io sì già, Cla. Lo sentivo. Bene, è chiaro. Anche io. Gianni ha detto che come che era fuori frequenza, io già. Lo sai che radio sto usando? No, non posso dire il contrario. Per me andava bene. Sia liscio, normale, pulito, ordinato. E agganciato addirittura aumentava ancora di più la radio. Tutto qua. E si conferma. Guarda adesso, Cla, che ha aumentato, premetto Massimiliano, ha aumentato un po' i watt. Un'altra cosa adesso va bene, perché i watt a zero avevi? Ho mezzo watt era tutto. Mezzo watt era troppo poco, vuol dire. A mezzo watt è troppo poco, lo puoi mettere a quanto ce l'hai? 2 watt e mezzo, 3 watt? Aspetta che cambio scala, che controllo e aspetta. Ma bene mi sentite? Ma guarda che io ti sento sempre bene. E sei tu che hai detto che hai la ricezione, che non sentivi bene a Massimiliano. La trasmissione stia andando benissimo, non c'è problema. Sì, sarà chiusa questa radio, dai, che sarà molto chiusa come ricezione. Quale radio? Questa che sto usando io. Ah, io già, dai. No, non voglio parlare di niente qua in radio. Ti ho detto che quella radio io l'ho usata per 5 mesi, era qua a casa quella radio. E ti posso garantire che non c'è nessuna chiusura, tranquillo. Se ne ha ricezione, ne ha segnali. Ma stai scherzando? Lascia perdere, dai. Cambiamo discorso. Vai sereno, stai andando bene. E sicuramente c'è qualche altra cosa che ti è sfuggita. Vai tranquillo. Guarda qua, così sono a 4 watt. Va bene, va bene. Noi sì, 9, quasi 9 più 3, radio 5. Cava. Aspetta, voglio una cosa al piccolino. Ehi, piccolino, piccolino. Claudio Porto Torres, ascolti qua lo sparviero, cambio. Forte e chiaro. Aspetta, pensavo non arrivare con 10 watt a Porto Torres. Buonasera Claudio. Buonasera. Com'è il segnale lì a Porto Torres? Bene, mi ascolti bene, Claudio, tu sei 9-10. Anche tu, 9-10, sta capo. Con 10 watt, ho già delle barre. Anche a ricezione. E 9-10 sei tu, 9-8, modulati 9-10. Siamo uno davanti all'altro, Con le due posizioni a torre che abbiamo, arrivi molto, molto forte. Sei l'unico che ascolta con quel segnale. Poi c'è Antonello, che mi arriva un po' più bassino di te. Poi c'è Emiliano, che c'ha un bel segnale. E poi Gianluca, che è quello che mi arriva più basso. E considera che sono con 1,5 di stazionari. Vabbè, però c'è la posizione che è ottima, lo sai, io ho abitato lì, quindi la conosco quella zona, la conosco perfettamente, bella zona, avanti già. Ehi, allora, e allora come mi ascolti Claudio di segnale radio? Radio ottima, e 6-9 con picchi positivi. Kappa, già va bene, dai. Sotto la potenza minima dell'apparecchio. Non parlo di palle. La potenza minima di serraglio sono, quanti sono? 30. No, quanti sono modulati? 30. Aspetta, no, non so. Cazzo, potenza minima. La gente di radio metricino ne va di più, ma stai scherzando, questo giorno ho provato in banda laterale ai 10 metri, mi ricordano 28,450, c'era un collega radioattore, ha detto ma che radio stai usando, ha detto guarda non te lo posso far vedere ma ti metti a ridere, io sto usando un baracchino, sì, sto usando un Cobra GTL X200, mi ha detto mamma mia come arrivi. Cazzo, va via, 150 watt di modulazione in banda laterale, in 10 metri, con la direttiva dei 10 metri, con la 3 elementi, una cosa da paura. Ma poi la radio che aveva, stava usando il microfono da palmo, chi sciuga, una cosa allucinante. Kappa. E adesso ho messo, diciamo, la potenza massima, guarda come va Claudio. E fai il passaggio che non stavo guardando. Guarda, adesso la potenza massima, guarda. Arrivi con i picchi positivi a 9-10. Kappa, già va bene. Ma peggiorato di radio? Ho peggiorato? No, migliorato, è più incisiva. Ah, kappa. Va bene, dai. Quello che mi preoccupa è che sentivo Massimiliano poco fa, cioè strano, solo io lo sentivo male. Tutti gli altri sentivo bene, a lui lo sentivo come fosse fuori frequenza, ma io penso che sia una questione di larghezza di banda. Ma no, non so, forse anche la vicinanza, siete vicini con Massimiliano, quello va bene la verità. KK, io 10 watt, ottima. KK, già va bene. Come stavo dicendo? Non me la metto più. Daniele. E chi è? Ecco, vai Massimiliano. Allora, guarda un po' qua che ho fatto quel lavoretto, com'è? Con questo ti sento bene. Questo è il Gassi? Sì, guarda com'è. Ho fatto quel lavoretto là. Ma bomba, quanto ce l'hai il tender, come me? La metà, là. Ehi, vabbè, al secondo puntino, dai, un po' più su al secondo puntino. Sì, al terzo, là, a metà. Ehi, va bene. Senti, Gassi, rimasti con tender. Massi. Ehi. Questo è Saturneco. Questo è Saturneco, sì. Sei chiarissimo con questo qua. KK. Adesso ti mando la foto, là, perché è senza maniglie, perché devo verniciare il cassone. KK. Va bene, là. Interessante che sia buono come all'interno, là. Ebbene. L'ha preso da un tecnico, ci aveva una settimana controllandolo tutto per vedere se era a posto prima di farglielo comprare. Lui ne ha amici, capito? La radio è arrivata da un tecnico, ha detto controllala tutta, dimmi se la posso comprare. Quello gli ha detto comprala, occhi chiusi, ha detto c'è qualche graffiettino nel case, ma internamente è nuova e perfettamente funzionante. Quindi i graffiettini si possono togliere, ma all'interno l'importante sia a posto. Ultima radio, Massi. KK, allora già me l'ha fatta con il power tutto chiuso, sono 2 watt e già picchi di 30. E cosa ne va? Mi piace così a me. Te l'hanno modificata, là? No, ha solo tagliato, diciamo, una gambuzza dove sono io. Ah, ho capito. Non è modificata. Mi guarda, ti ho mandato la foto. Sì, mandatela di sopra, è troppo bella, va. Cosa? La radio di sopra è troppo bella, quel vintage, è troppo bello, va. Ma io ce n'è mi 23 canali belli, Massimiliano, te l'ho sempre detto, più apprezzate le cose, io ne ho avuto tante, molto belle, capito? Quindi già va bene. 1976. Se tu immaginati che l'Elbeck sia del 1978. Infatti, cavagava. Va bene. Riprendi. Ma Massimiliano, ti sei dato al gas anche tu. E questo diciamo che l'ho preso perché è stato un affare, da, diciamo così. Hai fatto bene. Adesso quello lì te lo fai modificare, te lo ti fai fare cameraico e tutto, e ti esce come quello che c'hai. No, già, la camera d'aereo già ce l'ho, no, non faccio modifiche di nulla, il rimane così e buco, non faccio modificare niente. Ne ho già 2 modificate, mi basta andare là. Questo lo lascio così, quella là per ascolto, già lo sai. Questo vintage, forse io lo venderò al tipo, ma l'ho andato a provare, se non mi piaceva, come mi ha detto, se in caso mi riesci a vendermelo. Andiamo, Massimiliano, carta. Gava, via, non lui, vabbè. Sì, avevo di schiena Massimiliano, torna come prima, scorse, porca paletta, ma. La schiena, lui è proprio un nome. Già va bene. E come questa più o meno, dai, queste io non so se hanno fatto lo stesso lavoro, però c'ha dei picchi di modulazione allucinanti. Va bene. Cambio. Avanti, Daniele. No, mi sa che non vuoi salire là, non è Luca, per mal di schiena. Ehi, me ne che ti avrò io, chiamami una regalata, tirare a quinto e a diri. Ah, la brittella. No, la brittella. Ma te l'hai dato con l'addosso o una tapparella? No, hai fatto la tapparella e l'addosso. Ah, ho capito. Casino, per carità. Ma questa qua sta usando prima Massimiliano la radio, che Gianni diceva che uscivi male. Sì, quella lì sopra, bassa, piccolina. Ah, ma questa riusciamo bene, bella. Cos'è questa qua? No, questo è il Galaxy. Quanto mi ha dato la foto? Cazzo, bella, riusciamo bene, cavolo. Capparrogeno, positivo, dai. Allora, mi vendo tutto. Chiara, chiara, lì. Gira pure io, me. Gira anche io. Ah, vabbè, tanto la fine, se ti mangi tutto, poi ti mangi via, non fai né radio né nulla. Non tocca se Massi, non tocca se... dobbiamo fare i colpi, dobbiamo fare i colpi con questi galaxy, altrimenti adesso aspettiamo una persona, vediamo se è gelosa, se se lo compra anche lui, visto che ogni cosa che faremo noi se la compareggia Edo. Non tocca se... Tatarino. Buonasera a tutti. Bene, Tatarì. Tutto a posto al capo di Rogero. Avanti, Massimiliano. Scappa, ciao Natali, buonasera, ben entrato. Positivo, ok. Oh, Massimiliano, se ti dico una cosa, non ti arrabbiaggi. No, dimmi. Cazzo, è più chiara questa che il capo. Ehi, ma tanto non lo dopo. Anzi, 400 euro lo devo dare, se lo do. Sì, senti. 400, no, io 450. Vai, ti do 7 euro e me lo stai dando già. 7 euro di più ne vuoi? 7? E allora? E io va bene. A me già me lo dai per 7 euro, già lo so. Non fa Massimiliano, mica poi se c'è qualcuno che ha bocca sono cacchi tuoi, non fare come quello di Treviso, che stavamo chattando su WhatsApp. Siccome ha voluto le foto di quello della Radio Vintage che mi avevi passato tu, e ha visto la cover del Galaxy, no? Ha detto del Galaxy, del DAC, ha letto DAC marchi 10 e mi ha detto: ma c'hai un DAC marchi 10 tu? Ho detto: non me l'hai visto, non si vede la cover, mandami la foto tutta per intero. La domanda, la foto, l'hai fitto, non ne hai soldi per comprare questa radio, e sotto gli ho messo: chi vuole questa radio la paga 500 euro, ho volutala. E va tu, a lui. Sì, ma io gli ho messo 500 euro per non venderla, capito? E invece me li ha dati. Ha detto: come? Mandamela subito, immediatamente. Ma ha detto: è a posto, guarda, la vetrina. Quando l'ha ricevuta mi ha detto: non ne ho mai visto cose nuove. Cava, va bene. E ti mando un filmato che mi ha mandato, la sto usando con uno, come si chiama quello della TAN, Spander 500 mi pare, il suo Veo. Ah, lo sai che ha detto come esce di modulazione, una cannonata. E beh, tata lì. A giorni sono che ho già fatto il pre-ricovero, adesso mi devono chiamare per andare a farmi operare. Dai, piano piano, già metti tutto a posto anche tu. Avanti, Britella, Gianni, cazzo tu te lo telefono, senti? Io sono qua. Luca, comunque non è questo qua l'apparecchio, era l'altro che ho usato, quello vintage che non sentivo bene, ma dipende da me forse, perché tutti gli altri li sento bene, solo a lui lo sento così, probabilmente questo qui ha la banda più stretta e certi apparati non riesce a sentirli bene, non lo so, tutti gli altri li sento magnificamente, con quello là non lo sentivo bene, lo sentivo come se fosse fuori frequenza, ho controllato tutto, non ho toccato né clarifer né niente, è tutto a posto, non c'ha nulla di che, poi gli altri li ricevo bene, non è probabilmente la banda che è larga qua. No, ma sai cosa devi, guarda adesso se c'hai l'NB inserito di quella radio, l'NB inserito che stringe troppo, siccome quello lì è un PLL quarzato, capito, cosa c'è l'NB inserito? No, l'ho tolto l'NB, ce l'avevo inserito, la prima cosa che ho fatto è quella. Allora è proprio la larghezza di banda che c'è magari quello quarzato rispetto a quello lì, non è niente di grave, già a futti dindi, già va bene lo stesso. Ah sì, infatti, gli altri siete tutti belli. K di Rosmetro. Ecco. Ehi. Già, guarda se mi senti sempre fuori. Aspetta un attimino. Non tocca nulla già, guarda come lo stai sentendo adesso tu a lui. Male. Guarda già, 1, 2, 3. Male, sempre così. Ma sta lì bene, mi ascolti? Io sì. E anche io ti ascolto bene, che strano però, cazzo. Dimmi Daniele. No, stavo dicendo a Gianni a provare a cambiare radio. Aspetta, casino, Massimiliano. Sei molto spossato, ma sono due radio. Due, non una. Senti male? Sì, è molto spostato indietro. Cazzo, sei, ma non ti ho mai sentito male la testa, è tutto, boh, perché stai facendo così? No, è colpa del mic del 5005. Non fa bene così, ma ci vediamo molto spostato, indietro, verso indietro, me. Verso indietro? Vediamo un pochino di quanto, c'è il frequenzimetro. Prova a parlare, Massimiliano. Guarda un po', 1, 2, 3, prova radio, vedi un po' se è spostata, non lo so, 1, 2, 3, prova. No, io se mi sposto, io qua ti sento a 27.075 col Galaxy, se mi sposto di meno ti sento peggio, se mi sposto di più ti sento peggio. Ecchi, vai qua. Guarda un po'. 1, 2, 3, da Pippino fa il caffè. Sì, senti, sì. Adesso sia 0,72 a questo baracocco del cavolo. 0,72. Addirittura. Sì, ma era evidente. Oh, non lo so, Claudio, provate, che ti dica. Sono due apparecchi fuori. Aspetta che metto a 0,72, non l'ho provato io, Marco. Aspetta, metto a 0,72, vediamo se ti sento meglio. Ma se mi dà parla che ti faccio sentire come esce. Vedi un po'. Attenzione, Gianni, da più room, 1, 2, 3, prova radio. Continua che sta registrando, continua. Vabbè, io già devo continuare, non è già passaggio a mezz'ora. Parla un po', 1, 2, 3, prova radio. Claudio, tu come mi ascolti? Questa volta sì, io non so, io ti sento, non ti sento forse come ti sente Gianni, però io col fine corsa del Galaxy, che insomma lo conoscete, come mi ha detto Marco, sono andato al 0,72, sì, chiaro, molto più chiara la radio, quindi sicuramente è così. Io magari ho spostato appena questa, cosa dicevo qui? Chi è, avanti? Va bene, va, sì, un attimino stiamo parlando. Ciao, abbiamo chiamato, ciao. Che è 1, 2, 3, già. Chi è che chiama Gianni, avanti? Avanti chi mi chiama, anche questo se fu così male. 1, 2, 3, chi è? Presentati, avanti. E certo che ti copio. Sì, che mi avevo detto con il gatto Tonino. Io ti sento. Cosa messo che sia, buccia di gioca, parlare con Claudio Sparviero. Ma a me non mi scappa niente, io sento a tutti. E con questo che ti ascolto, Santiago 4 e Radio 4. Io aspetto, devo attaccare il gala, aspetto di sotto, ti direi una cazzata. Ah, ti sente del radio, se ti sento io del radio, Santiago 4, Radio 4, non è la radio fortissima, ma comunque io ti sento molto bene. Bene. Io non buccia di gioca, mi Torino, non buccia di gioca, Claudio Sparviero. C'ha le orecchie pelose. Anche la pedivella. Si conferma. No, arrivi. Certo, anche la pedivella pelosa. Sì, arrivi. E se arrivi qua vuol dire che arrivi anche bene da Gianni. Io sono più lontano di tutti, però con la ricezione che ho è chiaro che... Fattoni, stai arrivando più basso, Santiago 9, ti sei abbassato di un bel... Santiago 4 qua. Vabbè, qua arrivava 9.30, quindi Santiago 9 va bene. Alla grande, sul segnale qua è 9.10, arriva Santiago 4 con la portata e l'antenna di gomma, e cosa vogliamo di più? Ma le buccia di gioca. Cosa, Tony? Ho capito. Scendi da Santiago 4 a Santiago 2, però anche con la potenza minima ti ascolto. Santiago 4 con 4 watt, con 1,5 watt arrivi Santiago 2, quindi vedi te, da dentro casa, da dove sei tu? Non penso che ci siano problemi, ne ho la ricezione, no? Se ti dico una cosa non ti adiri anche tu, no? Che cosa? No, come ho detto a Massimiliano. Già lo sai che Ghita era il numero uno alla radio, sì. Puoi attaccare Cobra, Serpenti, Pipistrilli. Non ce n'è per nessuno con questa, eh. Beh, già lo so. No, pensavo che ti offendevi. Lo sai, io parlo...